Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è un omaggio dovuto a Glenn Frey, il cofondatore degli Eagles, come dimenticarli, con questo Hotel California, la band che negli anni 70 ha fatto grandi hit internazionali, tra cui appunto anche questo Hotel California di cui è coautore Glenn Frey. Perché questo omaggio? Perché se n'è andato a 67 anni. Tra l'altro nel 2007 c'era stata una riunione con un nuovo album, nuovi concerti, eccetera. Insomma, anche lui se n'è andato. Oggi però parleremo stasera Effetto Notte di cose più prosaiche, come sempre le notizie in primo piano sono altre. Ci occuperemo per esempio di tutta questa affossamento delle borse attraverso le banche, Piazza Affari in particolare, poi c'è la Cina, poi c'è il petrolio, insomma cercheremo un po' di capire in questo ingarbugliato scenario dei mercati finanziari quali sono le cause, quali sono gli andamenti, che cosa succede, e anche su questa storia complottistica o no, su possibili speculazioni sulle banche italiane, cercheremo di illuminare un po' la scena. E poi ci occuperemo anche dei dati sull'occupazione, pare che siano molto positivi secondo l'INPS, però c'è questo mistero dell'aumento dei voucher, qualcuno dice che nascondono solo il lavoro in nero, ma vediamo un po' cosa ne viene fuori dalle riflessioni che faremo con gli ospiti. E poi c'è anche una notizia importante, una decisione della Corte Costituzionale sulle trivelle, sulle trivellazioni per cercare giacimenti di petrolio nel mare Adriatico, nel mare Ionio. C'erano 9 regioni che si erano ribellate, all'inizio erano 10, c'era anche l'Abruzzo, poi invece sono diventate 9 e hanno proposto dei quesiti referendari per bloccare queste trivellazioni per questioni ambientalistiche, turistiche, eccetera, eccetera, e la Corte Costituzionale ha detto che è ammissibile uno di questi quesiti referendari, che è quello sulle concessioni. La durata non deve essere eterna, secondo chi ha proposto il referendum. Ne parleremo con due di diretti interessati, con una esponente del PD, che è la responsabile per l'ambiente del Partito Democratico, e con il costituzionalista che ha praticamente scritto di suo pugno questi quesiti e ha seguito queste 9 regioni che appunto sono insorte di fronte a queste prospettive di trivellazioni. Fra l'altro c'è stato un comunicato poco fa del governo che sembrerebbe dire chiunque vinca nel possibile referendum basta, le trivelle si fermeranno. Mi pare che per quelli che volevano lo stop che sia un ottimo risultato, però ne parleremo poi in modo approfondito con gli ospiti. Voi seguite come sempre Effetto Notte fino alle 22 perché avrete come sempre un quadro esauriente della giornata, e poi anche entreremo come al solito nel cuore di alcuni argomenti in particolare per capirne qualcosa di più. E quello che vi voglio sottoporre questa sera però è una domanda, mi rendo conto, un po' complessa. Di questa continua polemica da diversi giorni tra Commissione Europea e Renzi, tra Commissione Europea e Governo, voi che cosa avete capito? Oggi per esempio il Partito Popolare Europeo diceva l'Italia mina la credibilità dell'Europa. Secondo voi chi ha ragione in questa polemica, in questo botta e risposta con Renzi che risponde l'Italia è tornata, vi dispiace, avreste preferito vederci deboli? Insomma, 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms e le vostre opinioni, lo ripeto, 349-238-6666, oppure comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte ovunque siate nel mondo. Scontro aperto tra Roma e Bruxelles. Il presidente del gruppo PPE rifaccia a Renzi di voler sfasciare la credibilità dell'Europa, ma il presidente del Consiglio replica l'Italia è tornata, e domani l'Unione Europea apre un'indagine sugli aiuti di Stato all'Ilva. Banche italiane rassicurazioni sull'intervento della Banca Centrale Europea, le borse recuperano, le banche no, MPS chiude a meno 14%. Occupazione, secondo i dati INPS nel 2015 ci sono state 356.000 nuovi posti di lavoro, contratti a tempo indeterminato più 37%, ma il boom dei voucher è un caso. Trivelle, la Corte Costituzionale dice sì al referendum voluto dalle regioni sulla durata delle concessioni. Iraq, rapporto shock dell'ONU, dall'inizio del 2014 ci sono stati nel paese 19.000 morti, 3.500 gli schiavi dell'ISIS, per lo più donne. Assenteismo nella pubblica amministrazione, nel comune di Sanremo arrivano i primi licenziamenti. Cagliari, scontro frontale tra due treni del metro, 70 feriti, gravi il macchinista e una passeggera, la procura apre un'inchiesta. Calcio per la Coppa Italia in campo, Napoli-Inter. E partiamo quindi dal difficile, diciamo così, rapporto di questi giorni tra governo italiano e Unione Europea. Renzi sta mettendo a repentaglio la credibilità dell'Europa a vantaggio del populismo. Nei giorni delle polemiche seguite al botta e risposta Renzi-Juncker, a rincarare la dose arrivano le parole del presidente del gruppo popolare europeo, il tedesco Manfred Weber. Quando vediamo che l'Italia non è disposta ad aiutare la Turchia se non in cambio di una contropartita, ha detto intervenendo alla plenaria di Strasburgo, tutto ciò va a svantaggio dell'Europa, della sua forza e della sua credibilità. Parole che arrivano poche ore dopo la nuova presa di posizione del premier italiano contro Bruxelles. Italia sempre più aperta e attrattiva per gli investimenti internazionali, preferirebbero averci più deboli e marginali se ne facciano una ragione, ha scritto Renzi su Facebook, pur senza citare esplicitamente l'oggetto del suo attacco. Ma il riferimento all'assenza di autentici interlocutori a Roma, lamentata da fonti europee, è chiaro. Una polemica a distanza fatta anche del nuovo monito di Juncker contro gli egoismi dei singoli stati. Alcuni governi, ha detto, sono veloci ad attaccare Bruxelles, ma si guardino allo specchio, anche loro sono Bruxelles. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque vi chiedevo chi ha ragione in questo botta e risposta, in questo scontro, in questa polemica, in questi rapporti tesi tra la Commissione europea e il governo italiano, in particolare tra Juncker e Renzi. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, la pagina Facebook del programma Effetto Notte trattino Roberta Giordano. A proposito di Commissione europea, domani annuncerà formalmente l'apertura di un'indagine per gli aiuti di Stato all'ILVA di Taranto, aiuti che sono stati notificati. A quanto si apprende, la commissaria europea per la concorrenza oggi ha informato il collegio dell'iniziativa e secondo fonti europee l'apertura dell'indagine riguarderà però solo gli aiuti alla produzione e non quelli per la bonifica ambientale. I mercati finanziari, sulle borse c'è stato il segno più. Oggi Piazza Affari chiude a più 1,04%, ma è stata ancora una giornata molto difficile per il Monte dei Paschi, il cui titolo ha chiuso in ribasso di oltre il 14%, malgrado il divieto di short selling. Credo probabilmente che il divieto di vendite allo scoperto, questo è, sarà conservato anche per domani, ha fatto sapere il presidente della Consob, che è l'organo di controllo sulla borsa, Giuseppe Vegas, a margine di un convegno e a chi gli chiedeva se sia in corso una attacco contro l'Italia, una speculazione particolare, Vegas ha replicato, sono retropensieri che non abbiamo. E poi chiariremo di cosa si sta parlando. Poi i dati sull'occupazione, oggi sono arrivati quelli positivi dall'INPS, Renzi ha commentato così su Twitter, oltre 500.000 di posti di lavoro a tempo indeterminato in più nel 2015, l'INPS dimostra assurdità e sono assurdità le polemiche sul Jobs Act, hashtag avanti tutta. Dall'INPS arrivano segnali di ripresa sul fronte dell'occupazione. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio sul precariato, nei primi 11 mesi del 2015, comprendendo anche le trasformazioni di rapporti a termine e apprendisti, si sono registrate oltre 2,1 milioni di assunzioni a tempo indeterminato, a fronte di circa 1,5 milioni di cessazioni. Rispetto all'anno precedente c'è stato un saldo positivo di 510.292 posti di lavoro fissi. A fare da traino sono state le regioni del nord, in particolare Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Nello stesso periodo sono state 1.150.000 le persone assunte con gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità. A crescere è anche l'utilizzo dei voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale. Da gennaio a novembre del 2015 ne sono stati venduti oltre 102,4 milioni con un aumento del 67%. L'incremento maggiore si è registrato in Sicilia, più 97%, e in Liguria, più 85%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domani sera il Consiglio dei Ministri in notturna darà la stretta sui dipendenti pubblici fannulloni. Vi ricordate, se ne è parlato molto questi giorni e ieri avete espresso le vostre opinioni anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Proprio oggi a Sanremo, Comune di Sanremo, ha licenziato 4 dipendenti coinvolti nell'inchiesta Stakhanov sull'assenteismo scattata il 22 ottobre scorso, quella che aveva fatto tanto clamore. Sentiamo allora Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, al microfono di Edoardo Sirignano. C'è stata un'indagine da parte della Guardia di Finanza il 22 ottobre. La commissione disciplinare sta valutando i vari casi e le varie posizioni e oggi sono stati firmati i primi 4 provvedimenti di licenziamento e nelle prossime settimane ci saranno altri ulteriori sanzioni. Ecco, dunque stiamo percorrendo l'iter che le norme ci consentono e stiamo facendo tutte le valutazioni del caso, soprattutto in primo luogo la commissione disciplinare presieduta dal dirigente personale. Proprio in queste audizioni della commissione disciplinare ci sono stati vari dipendenti che hanno avuto modo anche di chiarire le loro posizioni, come altri invece che le prove non hanno, che le fornite non hanno portato ulteriori, vuol dire, chiarimenti e si è arrivato a prendere dei provvedimenti. Al momento quali sono le principali accuse? La frequenza delle infrazioni commesse, un concorso con altre persone, cioè che timbravano altri per loro, ci sono tutte cose in merito alle assenze. E siamo al tema delle trivelle. La Corte Costituzionale, la Consulta, oggi ha dichiarato ammissibile il referendum sulle trivelle richiesto da 9 regioni contro le perforazioni in mare per cercare il petrolio. Il quesito riguarda la durata delle autorizzazioni a esplorazione e trivellazioni dei giacimenti già rilasciate. A proposito, sono 9 i consigli regionali che hanno proposto questi referendum. Questo stesso quesito era già stato dichiarato ammissibile dalla Cassazione, adesso anche dalla Consulta. Su questo tema, vi dicevo, poi interverranno qui Effetto Notte la responsabile per l'ambiente del PD Chiara Braga e il costituzionalista che ha praticamente scritto i quesiti referendari e ha seguito i 9 consigli regionali. Spostiamoci all'estero, in Iraq, con il rapporto shock dell'ONU, almeno 19.000 civili sono stati uccisi, migliaia di donne ridotte in schiavitù, oltre 3 milioni di sfollati, di cui 1 milione di bambini in età scolare. Queste sono le cifre sconcertanti che danno un'idea del prezzo pagato dalla popolazione irachena in questi 2 anni di guerra contro l'ISIS, questo secondo un rapporto reso noto appunto oggi dall'ONU. Libia. In Libia è stata varata la lista dei ministri del nuovo governo di unità nazionale dal primo ministro Sarraj, un passo importante per la stabilizzazione del paese diviso e attaccato dall'ISIS, ma che entro gennaio, entro la fine di questo mese, deve essere perfezionato questo governo da un difficile vaglio parlamentare. Cronaca con lo scontro frontale di 2 treni della metro leggera oggi a Cagliari. Il bilancio è di 74 feriti, di cui 3 gravi, e sotto accusa è finito il semaforo, spento da tempo. I macchinisti ora comunicano solo via telefono. Da tempo chiediamo il raddoppio della linea, dice Michele Vacca, dell'Associazione Sarda Utenti Trasporto Pubblico, l'ha contattato Raffaella Calanda. Avevamo segnalato già da tempo che sarebbe stato opportuno raddoppiare i binari, sia per una maggior sicurezza ma anche per poter incrementare la frequenza. Infatti nel 2008, quando era stata costruita, era già stata predisposta affinché si potesse installare un secondo binario. Tutti sapevano che quel semaforo era spento da tempo? Era spento da alcuni giorni perché c'erano dei lavori per potenziare le condotte scolmatori di un canale. Risulta che fosse spento dai giorni di Natale. Stavano usando adesso un sistema di marcia a vista. Che cos'è che stavano usando, visto che il semaforo era spento? Un sistema di blocco via telefono. Siamo alla cronaca col delitto Macchi. Ha scelto la via del silenzio per 2 volte consecutive Stefano Binda, l'uomo arrestato venerdì scorso per l'omicidio di Lidia Macchi. Vi ricordate la studentessa uccisa a coltellate il 5 gennaio del 1987, un omicidio da cui sono passati 30 anni. È stata ritrovata nel bosco di Cittiglio vicino Varese. Binda, che è detenuto adesso nel carcere di Varese, è stato sentito in mattinata dal GIP per l'interrogatorio di garanzia, ma ha preferito non replicare alle domande del giudice che aveva disposto il suo arresto, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi gli agenti della Polizia Scientifica hanno raggiunto l'uomo nel carcere di Varese e gli hanno prelevato un campione genetico, quindi il DNA con un tampone. Per la chiusura, sport, pallanuoto, europei donne. L'Italia femminile di pallanuoto ha battuto la Spagna 9-8 agli europei in corso a Belgrado, già qualificato ai quarti. Il 7 rosa ha così vinto il girone B ed affronterà la Grecia. Invece si affrontano in Coppa Italia, caro Dario Ricci, Napoli-Inter. Eh sì, però allora a questo punto diamo il risultato anche degli uomini della pallanuoto. Che non è buono, cara, mi sembra. Roberta, eh? Ai noi non è buono perché, a differenza delle ragazze, il 7 bello è stato sconfitto nei quarti di finale dal Montenegro per 10-7. Sfuma quindi la possibilità della semifinale, sfuma anche la possibilità di qualificarsi per i giochi di Rio 2016. I ragazzi avranno un'ultima occasione nel torneo preolimpico che si svolgerà a Trieste in aprile. Diciamo del calcio, sì, per fortuna abbiamo dato anche spazio a uno sport tutt'altro che minore, ma già. Per quanto riguarda il calcio, quarti di finale anche questa sera, così come domani, in campo a San Paolo Napoli e Inter. Siamo al 29esimo di gioco, ancora 0-0 il risultato, ma decisamente meglio finora il Napoli, due volte vicino al vantaggio al 14esimo con un destro a giro di Mertens e al 25esimo con un destro questa volta di piatto di Calleon. In entrambe le occasioni bravissimo il solito Handanovic, quindi 29esimo in questo istante, anzi no, 30esimo, ancora 0-0 al San Paolo tra Napoli e Inter. Grazie Dario Ricci, a dopo Dario. E qual è la notizia extra di questa sera? Beh, parliamo dei controlli dei NAS sugli alimenti, no? Questo diciamo, l'Italia è uno dei paesi più controllati dal punto di vista dell'alimentazione. Effettivamente sì, però i risultati non sono confortanti, nel senso che risultano irregolari un alimento controllato su tre, dall'olio d'oliva alla mozzarella di bufala, dal pane al latte, dalle conserve di pomodoro al pesce. Dei circa 120.000 controlli sui prodotti alimentari effettuati dai NAS in tre anni, uno su tre presenta anomalie o non conformità. In lieve discesa rispetto agli anni precedenti, c'è poco da confortarsi, però a dirlo oggi in Commissione Agricoltura del Senato è stato il comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute, Claudio Vincelli. E con questo stiamo per aggiornare chi sta viaggiando. Intanto però volevo anche aggiornarvi sui vostri messaggi, sia alla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi, a proposito della polemica che continua da giorni tra Commissione Europea e governo italiano, tra Juncker e Renzi. Chi ha ragione secondo voi? Vedo due donne molto critiche. Angela scrive: Renzi può fare il bullo tra i politici italiani, ma con l'Europa non attacca. Per fortuna che c'è l'Europa, dice Angela. E Clotilde: l'usurpatore crede di avere a che fare con la sua corte di politicanti e giornalisti sdraiati. Fare il gradasso non gli conviene, prima o poi qualcuno gli farà i sorrisini. Ricordi Renzi? E poi ancora Paolo da Seregno: di sicuro a molte nazioni fa comodo avere un'Italia debole, e poi si lamentano di noi e nel frattempo chiudono le frontiere. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie e anche i vostri messaggi, le vostre opinioni che continuate a mandare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte in qualsiasi latitudine voi viviate, perché molti scrivono: ascolto Effetto Notte dalla Lituania, ascolto Effetto Notte dalla Germania, dagli Stati Uniti, da qualsiasi posto, oppure i messaggi SMS al 349-238-6666. Tra poco parleremo di tutto questo caos dei mercati finanziari di questi giorni, anche se oggi le borse sono andate meglio, in particolare anche Milano, Piazza Affari, però cerchiamo di capire anche qualcosa di più di tutti questi movimenti sincopati. Allora, invece, sulla questione del battibecco tra Commissione Europea e Governo Italiano, volevo una vostra opinione. Chi ha ragione? È vero, come dice il presidente del gruppo dei popolari al Parlamento Europeo, l'Italia mina la credibilità dell'Unione Europea? Chi ha ragione in tutto questo dibattito? Simone scrive sulla pagina Facebook: nessuno dei due ha ragione. Sui singoli argomenti l'Italia è stata spesso inadempiente ed evasiva, ma l'Europa fa troppo gli interessi della Germania e dei suoi paesi satellite. Ora vogliono aiutare la Turchia, ma chi ci aiuta noi con i profughi? C'è di mezzo questa questione. La Commissione Europea chiede 3 miliardi per sostenere la Turchia nell'accoglienza degli immigrati e pare che sia più un interesse della Germania, visto che poi attraverso la Turchia vanno soprattutto verso la nazione tedesca. E l'Italia è, diciamo, forse l'unico paese adesso in Unione Europea che frena un po' su questo contributo, perché 1 miliardo lo darebbe la Commissione Europea, gli altri 2 miliardi si dovrebbero distribuire tra i paesi europei, quelli da dare insomma alla Turchia. Poi continuo con i vostri messaggi, ma adesso, prima del primo ospite, vi ricordo, se avete acceso la radio adesso anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti. Il Partito Popolare contro Renzi, dice, mette a rischio la credibilità dell'Europa, e Renzi alza il tiro e nomina Calenda rappresentante per l'Italia in Europa. Trivelle, sì della Corte Costituzionale al referendum sulla durata delle autorizzazioni. Il presidente della Regione Puglia, Emiliano Pungerenzi, dice: sia contento, inizia la campagna ora referendaria. Effetto sgravi, Jobs Act, 500.000 di posti fissi. Renzi twitta: avanti tutta, i dati dimostrano, dice, l'assurdità delle polemiche sul Jobs Act. Borse europee recuperano, Milano in rialzo nonostante MPS, frena però la crescita cinese, e poi ci sono anche le questioni dell'abbassamento del prezzo del petrolio, poi capiremo. Movimento 5 Stelle, il caso Di Quarto, la sindaca Capuozzo dice: già da luglio, anzi un Twitter mi sembra che è stato trovato, già da luglio chiesi l'espulsione dell'assessore De Robbio. E poi, sempre argomento politico, sulle unioni civili il PD continua a essere diviso sulla stepchild adoption, ma si cerca un accordo. Assenteismo al comune di Sanremo, i primi 4 licenziamenti sono arrivati, il sindaco dice altri saranno in arrivo, timbravano in mutande e pigiama. E poi lo scontro frontale che c'è stato a Cagliari tra due treni del metro, 70 feriti, due gravi. Dieses Verhalten, insbesondere von Matteo Renzi, ich muss es so deutlich ansprechen, beschädigt die Glaubwürdigkeit und dieser Verlust an Glaubwürdigkeit ist die Ursache von Populismus Europa. Nicht, dass wir Zusagen machen, sondern dieser Verlust von Glaubwürdigkeit insomma, ist das Problem. Populismo in Europa, Matteo Renzi, Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, era abbastanza incavolato, Weber, del partito dei cristiano-democratici tedeschi. Ce l'ha con, c'erano tutti con Renzi in questi giorni della Commissione Europea. Di chi è la colpa? Se vuoi fare un, adesso noi parleremo poi dei mercati finanziari, di questo caos in cui si capisce poco, diciamo, per quelli meno esperti. Beh, indubbiamente si sono alzati molti toni perché il premier italiano ha provocato anche abbastanza pesantemente in un paio di interventi ufficiali e formali la leadership attuale dell'Europa, però bisogna anche dire che effettivamente la leadership attuale dell'Europa, Juncker e quant'altro, rispecchia un po' ancora quell'Euro-Germania o quella Germania a trazione tedesca che ha dettato legge negli ultimi anni e a detrimento degli interessi di molti altri partner, tra cui noi e gli altri paesi dell'area mediterranea, effettivamente su molti temi, non ultimo, come si diceva prima, questo dell'immigrazione, questi 3 miliardi da destinare ad Ankara sono una fonte di polemica abbastanza, diciamo, tattica da parte del nostro premier, ma con una serie di ragioni effettive, perché effettivamente quando noi chiedevamo aiuto per gli sbarchi a Lampedusa e per gli ingressi non controllati alle frontiere, pensavano che fosse un problema solo nostro, esatto, no? Finché non sono arrivati poi giustamente un po' dappertutto. Dopo poi è diventato un problema di tutti ed è diventato un problema tedesco, addirittura c'è stata l'ulteriore modifica di posizione strategica della Germania con la Merkel che ha fatto la paladina dell'accoglienza, come ricorderemo. Che ha accolto 1.000.000+, adesso leggevo che oltre 1.000-2.000 al giorno entrano ancora in Germania. Esatto. Senti, però Alberto, fammi venire solo una cosa, prego, tattica, certo. Perché in realtà a noi interessano di più i negoziati sulla flessibilità per i conti pubblici italiani, chiaramente devi mettere un po' di argomenti per consentire di acquisire posizioni di vantaggio rispetto ai tuoi interlocutori e questo è uno dei temi più sensibili che può essere anche oggetto di scambio diciamo rispetto ad altre partite, appunto io poi ti concedo gli aiuti alla Turchia ma tu mi aumenti la flessibilità nel mio bilancio pubblico per gli investimenti che devo fare per rilanciare la crescita, ad esempio. Ecco, quindi uno scambio eco solidale, dici, uno scambio eco solidale. Senti, invece per quanto riguarda i mercati finanziari, che succede in questi giorni? La Cina col dato sul PIL cinese ai minimi da 25 anni, ma sostanzialmente in linea con le aspettative degli economisti, che ora sembra tutto ciò che cresce appena meno di quello è un disastro. Generale il petrolio, le banche italiane, con qualcuno che dice c'è una speculazione, qualche mano nera dietro quello che succede ai titoli bancari italiani. Proviamo a sentire Brunetta, per esempio, di Forza Italia, che cosa dice. Ormai tutti dicono che è l'incertezza dei rapporti tra l'Italia e l'Unione Europea a provocare questa speculazione in borsa, dentro la quale vengono attaccate appunto le nostre banche che, fragili per non essersi ricapitalizzate negli anni scorsi, stanno subendo questo attacco da parte degli speculatori. Attacco degli speculatori motivato innanzitutto dal insensato comportamento di Renzi nei confronti dell'Unione Europea. Invece che attaccare l'Unione Europea per le cose che l'Unione Europea non fa, gioca con l'Unione Europea la carta del solo contro tutti, in realtà isolando l'Italia. Quindi Brunetta mette insieme questo caos dei mercati finanziari, soprattutto dei titoli bancari italiani, eccetera, con il comportamento di Renzi nei confronti della Commissione Europea. Tu ci vedi un collegamento, Alberto Rioli? Ma è molto da rumors di borsa, diciamo, è da propaganda politica, non ci sono evidenze che ciò sia davvero così. Fa un po' parte di questi momenti di tesi complottistiche che sempre ci sono nei momenti forti di alta speculazione finanziaria, però non c'è dubbio che siamo in una fase di altissima speculazione finanziaria sulle banche italiane ed è anche vero che è credibile la tesi di chi dice che non essendoci più la possibilità di manovrare lo spread, perché lo spread ha lo scudo delle forti iniezioni di liquidità che fa la Banca Centrale Europea, quindi è sostanzialmente diventato inattaccabile, non si può più muovere. Adesso si sceglie un altro punto debole del paese che deve diventare oggetto dell'attacco della speculazione, in questo caso in Italia sono le banche. Effettivamente per alcuni titoli bancari, Monte Paschi, Carige, le due banche più in difficoltà in questo momento, ci sono stati dei crolli di borsa del 14-16%, dall'inizio dell'anno Monte dei Paschi ha perso più del 30% del suo valore, ha fatto una ricapitalizzazione a 3 miliardi e sostanzialmente ne valeva 2,2, quindi si è mangiato già un'abbondante iniezione di nuovo capitale, quindi la situazione è molto pesante effettivamente, ma certo non rispecchia i fondamentali delle banche italiane e del credito italiano, ma è una situazione di attacco da parte degli hedge fund internazionali che amplificano moltissimo poi i movimenti dei mercati, perché agiscono con i famosi algoritmi di decisioni di vendite in blocco su grandi scale con grandi quantità di denaro in gioco, quindi questa è una fase di questo genere. Sicuramente l'incertezza del quadro politico, dei rapporti all'interno dell'Europa non aiuta a creare un meccanismo che possa contrastare la narrazione che sta dietro alla speculazione, e certo appunto abbassare i toni e trovare qualcosa di un po' più condiviso e un po' più utile magari alla crescita e al miglioramento della situazione economica dell'Europa sarebbe davvero utile. Senti, e invece questa la Commissione europea che ha chiesto al governo italiano ulteriori dettagli sulla nuova proposta di bad bank leggera, cosa significa anche le banche italiane in sofferenza? Perché molti se le immaginano ripiegate su se stesse con la faccia smunta, no? Questa idea di sofferenza, che soffrono? No, semplicemente c'è un dato tecnico, le banche italiane più di altre hanno i cosiddetti non performing loans, cioè i crediti che difficilmente possono essere riscossi, recuperati da parte delle banche. Perché? Perché la crisi economica degli ultimi 7 anni ha pesato molto, ha distrutto un quarto dell'intera base produttiva del paese, quelle erano imprese piccole e medie che avevano naturalmente delle esposizioni con le banche, le quali banche non sono più in grado, essendo queste società fallite, questi soggetti economici completamente spariti dal mercato, perché annientati dalla crisi, non sono più in grado di rifondere quanto gli è stato dato, quindi questi sono sostanzialmente i prestiti, le sofferenze e le giacenze. Se le sommiamo agli cosiddetti incagli, cioè ai prestiti che stanno per diventare difficoltosi perché ancora le banche riescono a controllarne posticipando i rientri, a controllarne i flussi, però si capisce che potrebbero diventare un problema ulteriore, stiamo parlando di 200 miliardi nel primo caso e 150 miliardi nel secondo, che sono una bella cifra di sistema, diciamo così, e questo è l'alibi che scatena poi la speculazione internazionale, perché noi abbiamo dei tempi di ritorno dei prestiti incagliati più alti degli altri, per esempio a volte si sono 8 anni, mentre le performance di Francia e Germania sono intorno ai 2, forse 3 anni, quindi molto migliori. La percentuale di sofferenze rispetto al totale del denaro della raccolta da parte delle banche in Italia è l'11%, la media europea è intorno al 4%, però è anche vero che per esempio rispetto ai titoli che le banche danno alla Banca Centrale Europea per farsi finanziare a costo zero con le famose iniezioni di liquidità della Banca Centrale, sono coperti dal rischio più che gli altri paesi, quindi c'è una situazione italiana in questo caso di grande vantaggio. È una situazione un po' complessa, nel senso che per far ripartire il paese bisognerebbe togliere questi incagli, queste sofferenze, metterle in una banca cattiva, diciamo così, che gestisce le cose cattive, bad bank testualmente. Già. E lasciare alle altre banche la parte sana, per modo che possano di nuovo dare credito all'economia, far ripartire l'economia, i prestiti e quant'altro. Alberto, abbiamo ancora, penso, mi pare 42 secondi per commentare invece i dati INPS sull'occupazione. In 11 mesi creati 300.000 nuovi posti a tempo indeterminato, però c'è questo caso dell'aumento dei voucher che secondo i sindacati nascondono nel mercato nero. Nero no, perché palesemente è abbinato anche all'erogazione dei contributi, quindi non è una definizione corretta, però indubbiamente sono stati 510.000 i contratti stabili negli 11 mesi registrati dall'INPS, non sono i dati del Ministero perché hanno una platea più piccola, ed è sicuramente una buona cosa, non si può obiettare nulla, sono aumentate quasi del 10% le assunzioni nel settore privato, e quindi i contratti a tempo indeterminato sono 442.000, vedo, più 37%, quindi è tanto. Le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato sono quasi 80.000 e anche queste sono aumentate del 25%. Positivo. Complessivamente c'è quasi 1 milione di posti di lavoro che hanno beneficiato della decontribuzione, quindi lo sforzo che il governo ha fatto nel cosiddetto pacchetto del Jobs Act tra la manovra della stabilità con gli incentivi alla decontribuzione e le nuove regole sul mercato del lavoro ha dato obiettivamente dei frutti. Grazie Alberto Orioli. Grazie a voi. Ciao Alberto, di questo frutto di questa sera. Poi tra poco parleremo invece, dopo la pausa, della decisione della Corte Costituzionale sul referendum relativo alle trivelle. Intanto vedo sulla pagina Facebook di Effetto Note, a proposito del dibattito invece tra Europa e governo italiano, Giorgio scrive: gioco delle parti, Renzi sgomita e fa bene, però dovrebbe farlo con degli alleati internazionali. Sentire da Juncker che si mina la credibilità di un'istituzione dalla credibilità in caduta libera fa quantomeno sorridere. Poi, questo sulla pagina Facebook di Effetto Note, invece al 349-238-6666 Roberto scrive: Renzi ha pienamente ragione, diamo un sacco di soldi all'Unione Europea e riceviamo zero e solo controlli. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi sino alle 22, abbiamo parlato di molti argomenti. Adesso vorrei sentire giusto, vediamo se becchiamo comunque Crozza sulla 7 per un attimo. Ha ragione Renzi, uno statale che viene, buonasera Landini, uno statale che viene beccato da una telecamera, Landini mi scusi, a non fare niente invece che lavorare in 48 ore deve andare a casa. Solo che dobbiamo estendere forse questo provvedimento a tutte le telecamere, non solo quelle della questura, perché se lo estinguiamo anche alle telecamere di Agorà, Porta a Porta, La Gabbia, Di Martedì, Ballarò, 8:30, Piazza Pulita, Quinta Colonna. Qui sta facendo, tornando sulla questione dei fannulloni, la sta estendendo anche ai programmi delle varie televisioni. Invece qui si lavora, qua Effetto Notte. Adesso passiamo subito a un altro argomento, però vi ricordo, dopo la pausa, tra poco le notizie più importanti, volevo guardare ancora i vostri messaggi al 349-238-6666, sempre relativa al dibattito, alla polemica, allo scontro tra Commissione Europea e Governo Italiano. Scrive Balanzone, fa satira ogni tanto, dissidio Europa-Italia, attento Matteo, a Bruxelles non sono mica tanto gentiloni, effettivamente. Poi P si firma: mi sembra tutta una sceneggiata, l'Europa ha paura di essere invasa e vede in Italia la principale pasticciona nella gestione dell'immigrazione. Sulla pagina Facebook Giuseppe scrive: le piattaforme, ah no, questo è sulle trivelle di cui parleremo tra pochissimo. Invece sulla questione europea Gilles dice: già da prima di Berlusconi e Renzi italiano era un'offesa, una cosa su cui sghignazzare, i due hanno peggiorato ulteriormente il termine, del resto milioni di italiani confermano in ogni momento i pregiudizi negativi. Andiamo però sulle notizie più importanti della giornata, che sono appunto questo scontro aperto tra Roma e Bruxelles, col presidente del gruppo Popolari Europei che rinfaccia a Renzi di voler sfasciare la credibilità dell'Europa, ma il presidente del Consiglio replica: l'Italia è tornata e domani l'Unione Europea apre l'indagine sugli aiuti di Stato all'Ilva. Banche italiane e rassicurazioni sull'intervento della Banca Centrale Europea, le borse recuperano, le banche no, MPS chiude con un -14%. Occupazione: secondo i dati INPS nel 2015 ci sono stati 356.000 nuovi posti di lavoro, contratti a tempo indeterminato più 37%, ma il boom dei voucher è un caso. Trivelle: la Corte Costituzionale dice sì al referendum voluto dalle regioni sulla durata delle concessioni, ne parleremo tra pochissimo. Iraq, rapporto shock dell'ONU, dall'inizio del 2014 ci sono stati nel paese 19.000 morti, 3.500 gli schiavi dell'ISIS, per lo più donne. Assenteismo nella pubblica amministrazione, nel comune di Sanremo arrivano i primi licenziamenti. E per il calcio, per la Coppa Italia, in campo Napoli-Inter. Dunque parliamo della vicenda delle trivellazioni nei mari italiani, soprattutto in Puglia, per cercare eventuali giacimenti di petrolio e di gas. Due provvedimenti del governo di qualche tempo fa, vi ricordate il decreto sviluppo e lo sblocca Italia, davano, diciamo, via libera alle piattaforme petrolifere entro le 12 miglia dalle coste italiane. Contro queste trivellazioni è nato un fronte compatto di 9 regioni, all'inizio erano 10 perché c'era anche l'Abruzzo, poi ha scelto un'altra strategia, ora 9 regioni che vanno dal Veneto alla Sicilia. E questo fronte si è ribellato di fronte a queste annunciate trivellazioni in nome della salvaguardia dell'ambiente, quindi del turismo, della biodiversità, eccetera, e ha deciso di battersi per un referendum contro le norme dello sblocca Italia che appunto davano via libera a queste trivellazioni nel mare Adriatico e nel mare Ionio. E evocando un po' il movimento No TAV, questo movimento si chiama No TRIV, No Trivelle, ha presentato 6 quesiti referendari e oggi i giudici della Corte Costituzionale costituzionale hanno dichiarato ammissibile un solo referendum, perché dice la Corte Costituzionale che gli altri sono stati superati da delle modifiche che già il governo italiano ha fatto, che riguarda questo referendum la durata delle esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti già concessi. Ne parliamo con Enzo Di Salvatore, che saluto, buonasera. Buonasera, buonasera. Costituzionalista e coordinatore del movimento No Triv, tra l'altro è lei che è il costituzionalista di riferimento delle regioni, perché è lei che ha materialmente scritto i testi di questi quesiti? Di sì, Salvatore. Ho scritto il testo dei 6 quesiti, non sono coordinatore del coordinamento nazionale No Triv, nel senso che il coordinamento non ha un coordinatore. Mm-hmm. Si coordina da sé, insomma, in modo autonomo. Senta, Di Salvatore, io le chiedo di avere pazienza, perché le voglio far ascoltare, visto che non poteva essere in diretta, l'ho sentita poco fa, l'onorevole Chiara Braga del PD, che è responsabile ambiente del Partito Democratico, di come il governo abbia accolto questa decisione della Corte Costituzionale. Sentiamo. Buonasera, onorevole Chiara Braga. Buonasera. Quindi il suo partito, il PD, che è il partito insomma di maggioranza, il partito di governo, come ha preso questa decisione della Consulta di rendere ammissibile uno dei referendum del fronte No Triv? Ma intanto naturalmente la Consulta ha fatto questa valutazione, quindi ne prendiamo atto e restiamo in attesa di leggere il 10 febbraio le motivazioni. Affronteremo questo passaggio, diciamo, con la convinzione comunque che l'orientamento che il governo ha assunto nella legge di stabilità, introducendo una modifica fondamentale alla disciplina dello sblocca Italia, segna in maniera credo inequivocabile qual è l'orientamento dell'esecutivo sostenuto anche dal PD. Senta, il governatore, il presidente della regione Puglia, Emiliano, Michele Emiliano, la Puglia è una delle principali regioni coinvolte nelle possibili trivellazioni, ha detto auspico che il governo non uccida, tra virgolette, la campagna referendaria. Sentiamo questo passaggio di oggi. Certo, il governo può fare un'altra norma, uccidi referendum. Io mi auguro che la eviti a questo punto, perché la campagna referendaria partirà oggi stesso, è evidente, e bisogna evitare assolutamente che gli italiani pensino che di queste cose non si può discutere nel nostro paese. Avete intenzioni omicide, onorevole Braga, nel senso ammazza referendum? Direi assolutamente di no, non userei questo termine. Mi permetto però solo di, diciamo, sottolineare che l'obiettivo primario dovrebbe essere quello di arrivare ad una disciplina che salvaguardi il più possibile la tutela delle risorse ambientali, e proprio in questo senso, diciamo, si è lavorato nelle norme della legge di stabilità. Quindi il referendum è evidentemente una strada possibile, praticabile, però il primo obiettivo credo sia quello di raggiungere, diciamo, la finalità di una disciplina che salvaguardi il più possibile le risorse territoriali e ambientali con una disciplina organica. Quindi il governo, nella piena, diciamo, libertà dell'esercizio dei suoi poteri, credo che deciderà di conseguenza. Credo che, avendo, diciamo, confermato la Corte Costituzionale il superamento di tutti gli altri quesiti, l'attenzione doverosamente adesso si debba concentrare su questo punto, su questo aspetto, diciamo, ribadendo in maniera molto chiara anche dal fronte referendario che comunque le questioni più problematiche, penso ad esempio al divieto di perforazione e trivellazione nell'arco delle 12 miglia, che era quello più problematico, anche dal giudizio della Corte è stato considerato assolutamente risolto e quindi ampiamente superato. Rimane, quindi c'è il divieto, c'è il divieto ad accorciare, sì, la distanza di 12 miglia per le perforazioni. Sì, nella disciplina della legge di stabilità è stato scritto chiarissimo al punto che appunto la Corte non ha ammesso il quesito. Invece per la durata delle concessioni, che sembrava sine die, cioè sino a quando era necessario, invece su questo, no, il referendum. L'unico quesito che è rimasto in piedi ora è questo. Senta, ma a questo punto, onorevole... Quindi, scusi, sì, non facciamo riferimento più a nuove trivellazioni, ma a titoli di ricerca già rilasciati, per i quali, in base alla normativa attualmente vigente su cui propone di intervenire il referendum, viene previsto invece un prolungamento dei tempi di utilizzo della risorsa. Ma arrivati a questo punto, dicevo, onorevole Chiara Braga, qual è la politica energetica del nostro paese a proposito di rinnovabili, che vengono menzionate tanto spesso, poi si ricorre sempre più o meno alle fonti tradizionali come il petrolio. Io penso che al di là della dialettica che si può manifestare sul tema proprio del referendum, sia opportuno cogliere questa occasione comunque per fare una riflessione, un ragionamento sulle prospettive energetiche del nostro paese, sapendo che il nostro paese non ha allo stato attuale una condizione di autosufficienza, che ha bisogno comunque di approvvigionarsi dal punto di vista energetico dall'estero e che ogni scelta di politica energetica che comunque il governo sta portando avanti, sostenendo, anche se forse con modalità nuove, più eque e più equilibrate, il settore delle rinnovabili, deve tener conto dell'aspetto della sostenibilità ambientale delle nostre scelte energetiche. Ecco, questo ha detto Chiara Braga, Enzo Di Salvatore, Chiara Braga del PD, per responsabile dell'ambiente. Però vedo da una nota di poco fa, fonti di governo dicono che non ci saranno nuove trivelle, chiunque vinca il referendum non ci sarà alcuna nuova trivellazione. Questo, secondo fonti di governo, la posizione dell'esecutivo dopo la decisione della Consulta. È una vittoria di Salvatore? Al momento direi che è un 4-2, lo dico così ironicamente, nel senso che i quesiti proposti erano 6. Sì. Però preciso anche che nei 6 quesiti proposti non c'era un no alla petrolizzazione, un no alla ricerca e al rilascio di concessioni, quindi all'estrazione. Cioè il problema era cercare di incidere su una disciplina di questo settore, perché al momento, quindi diceva l'onorevole Braga, che occorre così mettere mano al settore in modo da rendere al settore stesso una disciplina organica, sì. Ma questa disciplina organica non c'è, quindi qualsiasi intervento anche successivo del governo dovesse mai esserci sarà un intervento alla bisogna, così come è stato in realtà ormai da tempo, perché soltanto per citare gli ultimi 3 governi, Monti, Letta e Renzi, in realtà si è intervenuti sempre con decreto legge. Questo dimostra che in realtà il nostro paese ha bisogno di una disciplina organica, cioè una disciplina sistematica del settore, e non che si intervenga sempre all'occorrenza. Quindi nei 6 quesiti proposti non c'era questo no da parte delle regioni, c'era la volontà in realtà di mettere ordine ad una materia. Cosa c'è di strano nel voler pretendere che ci sia un piano delle aree che stabilisca dove si possa estrarre e dove no, perché l'Italia non è tutta, geomorfologicamente perforabile. Esatto, è molto diversa, perché ci sono aree di interesse naturalistico, ci sono aree fortemente antropizzate, ad alto rischio sismico e così via. Quindi la volontà dei promotori era quella in realtà di mantenere anzitutto il piano e poi consentire che in realtà in occasione dell'elaborazione del piano ci fosse la possibilità per le regioni e gli enti locali di poter partecipare alla decisione stessa, all'elaborazione stessa. Quindi questo non è un no, vuol dire mettere ordine. Di Salvatore, dopodiché, è chiaro, per chiudere, prego. Appunto, visto questa ultima nota del governo, secondo cui chiunque vinca il referendum non ci sarà più alcuna nuova trivellazione, significa che farete comunque il referendum, la campagna referendaria? La campagna referendaria verrà fatta, il governo, se vuole, ha solo un modo per evitare la campagna referendaria. Le aggiungo un'altra cosa, non soltanto sul quesito sul mare, perché in realtà insoddisfatti restano altri 2 quesiti, non dimentichiamocelo, quello sul piano delle aree e quello sulle proroghe dei titoli. Per varie ragioni tecniche adesso non sto qui a dirvi. Però in realtà su questi già venerdì prossimo verranno depositati 2 conflitti di attribuzione nei confronti del Parlamento in Corte Costituzionale. Questo vuol dire che i quesiti potrebbero diventare 3. Bene. Quindi in questo modo, per evitarli, ha solo appunto una possibilità: modificare la normativa sul mare, sulle proroghe e sul piano delle aree. Avremo modo allora di ritornare a discuterne. Grazie Enzo Di Salvatore. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e gli SMS al 349-238-6666. Questa sera sul dibattito, sullo scontro tra Europa e governo italiano, Claudio da Torino scrive: quando l'Europa era contro Berlusconi e i sinistri e quasi tutti i giornali erano felici, adesso l'Europa non va più bene? Vi ricordo quali sono le notizie più importanti, questo scontro appunto tra la Commissione Europea e Renzi. Il Partito Popolare Europeo anche dice mette a rischio Renzi la credibilità dell'Unione Europea, e Renzi alza il tiro e nomina Calenda rappresentante, dice l'Italia ora ritorna, è più forte. Trivelle, ne abbiamo appena parlato, sì della Consulta al referendum sulla durata delle autorizzazioni. E poi effetto sgravi del Jobs Act, 500.000 di posti fissi secondo i dati INPS. Borse in Europa recuperano, Milano in rialzo nonostante MPS. E poi il Movimento 5 Stelle, la sindaca di Quarto Capuozzo dice: già da luglio chiesi l'espulsione dell'assessore De Robbio. Sull'Unione Civile il PD continua a essere diviso sulla stepchild adoption, ma si cerca un accordo. E per l'assenteismo al Comune di Sanremo arrivano i primi 4 licenziamenti. Europa 24 notte. Parliamo della Polonia, che è al centro del dibattito in Europa. La questione sarà anche domani al centro di un dibattito in plenaria al Parlamento europeo. Non sono le scintille con Roma, ma soprattutto le posizioni di Varsavia a preoccupare Bruxelles. Tutto nasce da quando la Commissione europea ha deciso di avviare una valutazione preliminare sullo Stato di diritto in Polonia. Motivo della decisione, il varo da parte del nuovo governo polacco guidato da Diritto e Giustizia della riforma della Corte Costituzionale a dicembre, a cui si è aggiunta la modifica della legislazione sui mezzi di informazione pubblici. La prima permette all'esecutivo di sostituire 5 dei 15 giudici della Corte con toghe ritenute amiche, la seconda di nominare a proprio piacimento i vertici di radio e TV di Stato. Due riforme che hanno suscitato la protesta delle opposizioni e anche dell'opinione pubblica in Europa e sulle quali l'Europa stessa intende ora vederci chiaro. La decisione di avviare una valutazione preliminare è senza precedenti. È la prima volta in assoluto, infatti, che la Commissione europea attiva il Rule of Law Framework, nuovo meccanismo a tutela dello Stato di diritto dell'Unione approvato nel marzo 2014. Per ora quello dell'Unione è un invito al dialogo, accolto però con riluttanza da Varsavia, che non perde occasione di contrattaccare, ritenendo le preoccupazioni dell'Europa ingerenze nei propri affari interni. Ieri il presidente polacco Duda, al termine dell'incontro con il presidente europeo Donald Tusk, ha tentato di ridimensionare la situazione. Oczekujemy z jednej strony tego, że będziemy jako Polacy i jako państwo polskie szanowani w Europie. Apeluję o to, żeby była to prawdziwa debata, aby był to prawdziwy dialog i na taki dialog... Posso assicurare, ha detto, che niente di eccezionale sta accadendo in Polonia. C'è una normale sequenza di eventi che succedono quando c'è un cambio di governo. Certo, ha ammesso, abbiamo conflitti, ma sono conflitti politici, non miniamo la nostra appartenenza all'Unione Europea. Al contrario, ha continuato, in Polonia il cambio di governo e l'acceso dibattito provano che abbiamo libertà di espressione e che la democrazia funziona bene. Ieri Donald Tusk ha tolto per un istante la casacca da presidente del Consiglio europeo e infilato quella di cittadino polacco. Unia Europejska i roli miejsca Polski. La Commissione poteva evitare la procedura, ha detto Tusk. Non voglio che il mio paese sia in una situazione dove è criticato e messo sotto indagine. Poco importa se in tutto questo Tusk ha dovuto difendere l'avversario politico Andrzej Duda, diventato da pochi mesi presidente della Polonia, sconfiggendo il suo partito Piattaforma Civica. Le occasioni di dibattito su Varsavia questa settimana non mancheranno. La questione sarà domani al centro di un dibattito in plenaria al Parlamento europeo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Tempo di aggiornarci invece con Dario Ricci sulla partita di Coppa Italia. Dario, come sta andando tra Napoli e Inter? Ah, cara Roberta, siamo al 49esimo, al quarto della ripresa, risultato ancora di 0-0 e siamo fermi per quanto riguarda la cronaca, le tre parate del primo tempo del portiere interista Andanovic al 14esimo su Mertens, al 25esimo su Callejon, al 45esimo su una debole punizione di Gabbiadini, meglio il Napoli, stiamo ancora aspettando il primo tiro in porta dell'Inter. Fatto sta, comunque, 50esimo di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Inter al San Paolo. Grazie Dario Ricci, e intanto ancora un messaggio sulla pagina Facebook di Effettonote, al quale vi affido sempre a qualsiasi momento. Giuseppe scrive a proposito delle trivelle: le piattaforme di estrazione metano esistono da anni, dagli anni 80 davanti all'Emilia Romagna, Marche, nessun problema per il turismo e per l'ambiente. Se si cerca su internet un MIG si trovano tutte le concessioni, i pozzi e le piattaforme, così ci informa Giuseppe sulla pagina Facebook di Effettonote. Io invece vi ritrovo alle 22 per aggiornarci sui titoli più importanti. A dopo.